Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 4 novembre, benvenuti a tutte e tutti, sempre su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che, come sapete, fa da ponte tra il carcere e la città e, come al solito, va in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Io sono Caterina Bombarda, alla conduzione con Antonella Cortesa, a cui do il buongiorno. Buongiorno, Antonella. Ben trovata Caterina, ciao a tutti. Del nostro programma, che comincia sempre con notizie che hanno a che fare con il mondo del carcere, della detenzione. L'articolo di oggi sul riformista, firma di Stefano Anastasia, il titolo è questo: Suicidi in carcere. Perché sì, c'è stato ancora un morto in carcere in questo mese di ottobre a Regina Coeli di Roma. Ancora una volta si tratta di uno straniero, una persona afghana, sempre con la solita bomboletta. Un 36enne, detenuto dal 3 agosto scorso, in attesa di giudizio, accusato di un grave reato contro la persona, maturato probabilmente in circostanze occasionali di vite ai margini degli interstizi metropolitani. Sappiamo bene che i suicidi in carcere non si possono completamente evitare, come fuori e più di fuori. E non a caso sono decine di volte più frequenti che fuori. E questo perché il carcere, scrive Anastasia, genera e aggrava sofferenze esistenziali che non sempre sono riconoscibili né prevedibili. Tant'è vero che il suicidio in carcere, afferma il giornalista, è un mezzo, secondo lui, per sottrarsi alla sofferenza della prigione e di una vita girata per il verso sbagliato. Il punto è che è più facile liberarsi della necessità del carcere che liberare il carcere dai suicidi. Ma infatti a tal proposito ti chiederei come sta agendo sul problema il Ministero della Giustizia. Si cerca di fare in qualche modo prevenzione? Allora, come in tutte le situazioni tragiche e senza una via di uscita o di un bene assoluto da conseguire, quel che si può fare è sempre quello di ridurre il danno. E così ha fatto l'allora ministro della giustizia nel 2016, il ministro Orlando, e il ministero della giustizia, che si è impegnato per i piani di prevenzione a ogni livello e in ogni istituto. Quindi non ci si può lamentare che nulla sia stato fatto. Né tantomeno, secondo Anastasia, è giusta la ricerca della responsabilità ultima, ovvero del capro espiatorio, cioè di chi non ha intuito, chi non ha vigilato, chi non ha impedito, come se appunto il suicidio sia sempre prevedibile, calcolabile, ostacolabile, anche contro la lucida determinazione di chi invece decide di togliersi la vita. Il motivo è che questa comprensibilissima ricerca della responsabilità individuale, se troppa, non solo genera atteggiamenti burocratici e difensivi di tutte le personalità professionali coinvolte, che a quel punto sono timorose di essere messe sul banco degli imputati, ma disconosce ancora una volta la soggettività dei detenuti, considerandoli incapaci anche di autodeterminarsi nella scelta tra la vita e la morte. Sì, però al di là di tutto, quando c'è un caso di suicidio va indagato, va elaborato, bisogna capire come mai sia maturata questa scelta e che altro avrebbe potuto essere fatto per prevenirla. Questa sì, Antonella, è una domanda che bisogna avere il coraggio di porsi, a partire da innumerevoli domande in realtà che dovremmo farci, come in questo caso di questo suicidio a Regina Coeli, questo ennesimo caso. Per esempio, chiedendoci se c'era un problema linguistico, comprendeva la nostra lingua questo ragazzo, e poi se c'è un motivo di comprensione, aveva capito il motivo per cui era in carcere, con quali prospettive, e poi se c'erano problemi di salute. Per esempio, sappiamo che era entrato in carcere da tossicodipendente in trattamento metadonico presso un servizio territoriale e che ha continuato il trattamento anche in carcere, ma ovviamente a scalare. Ed era seguito quindi dal servizio delle dipendenze a Regina Coeli e aveva colloqui periodici anche con l'educatrice, ma sappiamo che non faceva colloqui con i familiari e con i conoscenti. Pare anche che avesse una famiglia abbastanza vicina, una moglie, due figli a Genova, quindi che potevano incontrarlo e non l'hanno mai fatto perché lui ha sempre rifiutato di parlare con le persone a lui care. E questo chiaramente all'interno del carcere non è mai un buon segnale, insieme al fatto che comunque aveva un italiano molto incerto e quindi era oltremodo isolato. si potrebbe fare di più, si sarebbe potuto fare di più? Forse sì, ma bisognerebbe riuscire a discuterne, trovare gli spazi per affrontare tutte queste domande. Quindi l'attenta valutazione tra gli operatori di ciascun singolo caso del suicidio è una cosa utile per cercare di capire cosa si sarebbe potuto fare meglio, in cosa le procedure di prevenzione potrebbero essere corrette. Tra queste, certamente, suggerisce Anastasia, a livello di sistema, la mancanza di un'alternativa all'uso delle bombolette da campeggio per le piccole cotture dei detenuti è una cosa che va affrontata subito, è molto urgente. Quindi questo è un articolo molto critico che ci invita a riflettere, come tutti gli articoli sul quotidiano Il Riformista, e che quindi insomma merita un approfondimento. Ma restiamo anche oggi con il nostro Michael Jackson e ascoltiamo la canzone The Way You Make Me Feel, si tratta del terzo singolo estratto da Bad ed è una delle canzoni di maggior successo di Michael Jackson. A tra pochissimo, sempre con Antonella. Eccoci, bentornati dopo il brano musicale, siamo con Antonella e parliamo di cinema e diritti. Ritorno alle radici, raccontaci che cos'è. Sì Caterina, in effetti andiamo in Colombia e nel novembre 2008 dalla località indigena La Maria nel dipartimento di Cauca è partita un'enorme marcia di persone native dirette a Cali e nella capitale Bogotà. Il movimento è noto come Minga de Resistencia Indígena y Popular e volevano il rispetto dei loro diritti, l'impegno delle istituzioni per la difesa della terra e per cambiare anche l'immagine distorta e in alcuni casi stigmatizzante con cui i mezzi di informazione tradizionali si riferivano alle comunità native. E perché, Antonella, ci stai parlando di una marcia e non del cinema? Perché la marcia è stata fondamentale per il consolidamento di un movimento audiovisivo delle popolazioni native. Come ricorda la cineasta Rosaura Villanueva, è questo diciamo il nesso. La Villanueva è una delle fondatrici della mostra del cinema Daupará, una parola che per gli Embera significa poter vedere oltre. La mostra offre un servizio di streaming e un archivio di più di 200 opere tra lungometraggi, cortometraggi, videoclip, prodotti da 45 popoli nativi. E Daupará si tiene ogni anno tra Bogotà e i vari territori indigeni e oltre a presentare i film e le sue opere prodotte negli ultimi mesi, si organizzano incontri, dibattiti e secondo Villanueva i popoli nativi si sono avvicinati ai mezzi di comunicazione proprio come a uno strumento di denuncia. Oggi il ventaglio delle possibilità si è allargato fino a comprendere formati di fiction e animazione, tra i quali per esempio il cortometraggio El Origen della Coca, che ne è un tipico esempio. E molti popoli nativi parlano delle loro origini, della loro idea di cosmogonia e del rapporto che hanno con la spiritualità E la cosmogonia compare, per esempio, all'interno di una conversazione con un guaritore, oppure quando si chiede un consiglio si interpreta un sogno. E questo ce lo spiega appunto la regista Villanueva. Ci racconta anche che è un importante elemento che avvicina le generazioni, e quindi c'è la grande partecipazione di anziani e giovani. Racconta Villanueva che in alcune attività si parla a turno, seduti attorno al fuoco, si masticano foglie di coca mentre si prendono decisioni collettive. E gli anziani sono coinvolti e trattati come protagonisti. Molti hanno imparato a gestire gli strumenti e a partecipare sulla base delle loro conoscenze, perché quasi tutto quello che si fa nelle comunità è frutto appunto di una decisione collettiva. E si consultano gli spiriti anche per sapere, tra l'altro, dove ambientare una storia. E le opere audiovisive indigene servono a dare ossigeno anche alle diverse lingue e a combattere la loro scomparsa che è sempre dietro l'angolo. E c'è anche una serie televisiva che la Villanueva ha prodotto, vero? Sì, infatti, Caterina, ha prodotto El Buen Vivir, la prima serie TV indigena della Colombia, ovviamente, è arrivata alla terza stagione. Nel 2019 ha vinto il premio India Catalina, uno dei più importanti dell'industria audiovisiva colombiana, nella categoria miglior produzione per l'inclusione sociale. In 30 storie realizzate da altrettanti popoli nativi si parla del ruolo degli spiriti nella cura, dell'attenzione per la terra, dello stile di governo locale e dell'importanza dell'acqua. Voglio anche ricordare Mudrua, che è un documentario del 2012, diretto da Milady Ozoko Domicò, una giovane del popolo Embera e Abida, nel dipartimento di Antioquia, che da bambina ha dovuto lasciare il suo territorio a causa della violenza interna. Si è trasferita con la mamma a Medellin, la capitale del dipartimento, e Mudrua, realizzato durante il corso di comunicazione audiovisiva e multimediale all'Università di Antioquia, è un po' un ritorno materiale e simbolico alle radici, una ricerca della propria identità. Lei dice che da adolescente ha cominciato a farsi delle domande sull'origine e la storia del suo popolo. Poi è arrivata all'università con un'idea chiara in testa. Voleva sfruttare quello che le era stato insegnato per lavorare nelle comunità. E infatti oggi si trova nel dipartimento di Putumayo, dove si occupa di formazione audiovisiva per il popolo Kamsam. Orozco Domicò è giovane, ma ha già una bella carriera avviata, e quando le si è chiesto che cosa è rimasto, che cosa ha imparato dalla comunità, la sua risposta è stata probabilmente il ritmo. Non tutte le cose succedono velocemente. Ho fatto miei alcuni principi dei popoli nativi, come osservare nel dettaglio quello che succede, dare voce alla natura, sapere che gli esseri umani non sempre sono il centro, ma che tutto ruota intorno all'acqua, alle montagne, alle piante. E questo è quello che ci ha raccontato la Domicò, e poi ha concluso dicendo: forse non era la strada che avevo immaginato, ma porta sempre da qualche parte, e noi ne siamo certi perché ha avuto tantissimo successo. Ma per rimanere in tema di natura, ascoltiamo Angélique Kidjo con la canzone Mother Nature, che ha tra l'altro cantato con il famosissimo Sting. Ascoltiamola insieme. won't you listen? We need each other now. We need each other now. Each one of us needs one of us. We need each other. Rieccoci, bentornati. Dopo la pausa musicale siamo sempre su Liberi Dentro Eduradio e TV e come al solito già da alcuni giorni i nostri ospiti sono Pietro Corazza e Laura Fabbri e ci parlano del progetto che io ho chiamato per semplificare Cirenaica, perché prende il nome dal quartiere in cui nasce, ma il progetto Identità in Movimento, che è partito a gennaio del 2021 e che adesso diciamo è in fase di... Ci racconterete voi, sta per nascere qualcosa, ma non voglio anticipare niente. Abbiamo parlato un po' degli obiettivi, di come è nato, ma parliamo di come anche cambiano i progetti, perché come tutti i progetti sperimentali che prendono piede a contatto con le persone, si confrontano tutti i giorni con esigenze nuove e diverse, anche questo progetto avrà avuto degli aggiustamenti in corso. È stato così? Sì, è stato così, perché è un progetto appunto, come dicevamo, nato da un'idea nostra, e quindi da Equipe Villaggio del Fanciullo e Associazione Inside, ma in realtà è nata piuttosto che dall'Equipe del Villaggio di Educatori, più da me, no? E quindi poi dopo l'incontro della proposta mia con i miei colleghi, appunto educatori, è stato molto importante perché mi ha insegnato proprio l'importanza di pensare insieme il progetto con l'intera equipe. Quindi c'è stata una rimodulazione del progetto nato dal fatto che proprio i miei colleghi mi hanno detto: questo progetto va pensato insieme, perché comunque siamo un'equipe che abbiamo a che fare con con i ragazzi che vivono qua e che ci sono delle relazioni di mezzo, e quindi questo è stato un aspetto di cambiamento del progetto. E poi c'è stato l'altro aspetto dell'incontro dell'equipe con i ragazzi, con le ragazze del villaggio, e di nuovo una rimodulazione del progetto. Quindi proprio un progetto che è andato cambiando perché ci siamo resi conto che la nostra idea, il nostro pensiero era importante che si incontrasse con quello dei ragazzi, delle ragazze, con quello dei colleghi. E quindi un progetto che si è modificato proprio per le teste pensanti che sono andate aumentando sempre di più. E quindi anche un progetto orizzontale, piuttosto che verticale, questo secondo me è stato il cambiamento più significativo. Poi sicuramente c'è da segnalare il fatto che noi avevamo pensato di fare più esplorazioni sul territorio con i ragazzi e le ragazze, proprio per dare loro la possibilità di fare nuovi incontri e di lavorare su una riflessione della propria identità e di quella degli altri, come questo cambiava con l'incontro con l'altro. Ma c'è stata la pandemia. Cioè nel senso c'era già, ma l'urto di questa realtà esterna ha veramente modificato i nostri piani e anche i ragazzi stessi, rispetto al loro desiderio di esplorare, hanno manifestato delle resistenze. Quindi siamo riusciti a fare quei poche esplorazioni, tra cui una significativa a Montesole, e magari dopo vi diciamo qualcosa in più su questo. Certo, e quali temi avete trattato insieme? Avete parlato appunto, per parlare di identità si parla di politica, si parla di contesti sociali, di religione, ma si parla anche di carcere per caso? Sì, sì, abbiamo toccato moltissimi temi appunto. Quando si parla di identità, appunto già si parla dei contesti in cui viviamo, quindi cosa vuol dire vivere in Cirenaica, cosa sono dalla prospettiva di ragazzi adolescenti le cose centrali nella loro vita, quindi ci si affaccia sul mondo del lavoro, cosa vuol dire lavorare in certi contesti, cosa vuol dire rendersi conto delle difficoltà nel mondo del lavoro, delle difficoltà del guadagnare uno stipendio decente, dell'essere sfruttati, trattati male, discriminati sul lavoro. Questo è stato un confronto interessante. Anche il dove voglio vivere? In Italia è un paese che dà opportunità per i giovani, com'era il paese da cui sono venuti i miei genitori? Quale potrebbe essere un paese in cui potrei andare? In Inghilterra, negli Stati Uniti ci trattano meglio? Ne sei proprio sicuro? Guarda che non ci trattano così bene se andiamo là. Questo è stato un discorso e quindi ovviamente si lega anche a questioni politiche. Per esempio, guarda che se vai negli Stati Uniti non ce l'abbiamo mica l'assistenza sanitaria come qua, quindi occhio a dire che si sta così male in Italia. Una serie di discorsi interessanti di questo tipo. Abbiamo toccato anche la questione carcere, in particolare quando siamo andati a Montesole, e lì abbiamo toccato diverse questioni molto interessanti. Ovviamente andare a Montesole, dove ci sono state le più grosse stragi naziste e fasciste durante la Seconda Guerra Mondiale nel nostro paese, con moltissime vittime, tutta la popolazione di questo monte sterminata. E lì ovviamente c'è stata tanta riflessione sulla violenza e sulla violenza che possiamo subire, ma anche che noi possiamo fare perché l'abbiamo subita a nostra volta o per motivi vari. C'è stata forte riflessione anche sulla questione del perdono. Riesco a perdonare chi mi ha fatto del male? Oppure mi metto nei panni di un padre che ha fatto male ai propri figli e torna? Lo perdono, non lo perdono? Se io fossi in lui, come l'avrei gestita? Questioni molto interessanti. Abbiamo toccato anche la questione del carcere. Sia in prima persona. Cosa succede se prendo una certa strada nella vita e finisco in carcere? Abbiamo invitato alcuni ospiti, tra cui una persona che ha avuto esperienza di carcere in vita sua, e quindi i ragazzi erano molto curiosi. Com'è stato? Che rimpianti hai? Come ci sei finito? E questo li ha molto toccati. Ma anche loro la vivono non solo in prima persona, ma anche a livello familiare. Quindi cosa vuol dire, per esempio, avere un familiare in carcere? Cosa vuol dire avere un padre che è stato per anni o che... Quindi, tasti sensibili, pensiamo che sia stato molto utile poterne parlare in un contesto, come dire, libero, aperto, in cui confrontarsi veramente, anche con, appunto, persone esterne che offrono stimoli e esperienze di vita e anche eventualmente relazioni che possono essere anche un punto di riferimento in futuro, volendo. Grazie Pietro. E tra i punti di forza di questo progetto, che ce ne sono veramente tantissimi, una domanda, diciamo, se vogliamo un po' politica, come mai è stato importante dare vita a questo progetto e pensate che in ogni città ce ne debba essere uno? Allora, io ritengo che un punto di forza del progetto sia stato proprio quello di avere dato la possibilità al gruppo sia di educatori che al gruppo di ragazzi di pensare insieme all'identità, proprio avere uno spazio dedicato, poi che si sia andato trasformando questo spazio, che sia cambiato, va benissimo, però proprio l'idea che ci fosse questo obiettivo, pensare a noi, a come cambiamo e come cambia il rapporto con l'esterno. E questo sicuramente è un punto di forza importante. Poi, se posso aggiungere una cosa, diciamo anche a livello più politico, sì, penso che sia veramente importante averlo non solo in ogni città, ma direi in ogni quartiere di ogni città, nel senso che, appunto, come abbiamo un po' cercato di spiegare, sono progetti fortemente calati sui territori, sui quartieri, quindi si modellano in base alle persone che hai davanti, al contesto in cui sei, e crediamo che sia uno spazio veramente importante per i giovani. Certo, magari hanno anche altre occasioni come la scuola, che però sono più formali. Qui è veramente uno spazio di creatività in cui ci si dice: guardate che ci sono anche degli adulti che hanno interesse a stare con voi, ad ascoltarvi, a passare del tempo con voi, ma non per dirigervi dall'alto, ma per davvero lasciarvi uno spazio di esplorazione, di riflessione in cui la vostra creatività, le vostre riflessioni possano venire fuori. E se dovessi dire, questi progetti, io credo che chi li vive si capisca che sono cose belle, davvero utili, che funzionano. La domanda è: come facciamo a farne di più? Detta molto concretamente, un invito ai nostri governanti e amministratori, servono dei finanziamenti, perché spesso... il problema è che questo genere di progetti si pensa che debbano essere delegati al volontariato. Ah sì, lo fanno dei ragazzi giovani, di buona volontà, però delegare al volontariato vuol dire, uno, pensare che non ci siano dietro delle competenze, mentre invece per farlo bene servono delle competenze, e due, per dedicarci tempo serve che sia retribuito, perché lo facciamo di lavoro, non è che possiamo farlo nei ritagli di tempo. Quindi questa non è, cioè ovviamente noi siamo interessati nel raccontare questo, ma è per dire, è importante a livello politico, è una questione politica e culturale, dare dignità a questo tipo di lavoro e a questo tipo di progetti. Se ci si investe, vengono fuori tantissimi risultati. Se non ci si investe, poi non ci si può lamentare che i giovani siano disinteressati alla cosa pubblica. Se gli diamo il tempo e le risorse, è facile che si interessino alle cose pubbliche. Sì, anche perché poi la vera ricchezza di questo progetto è stato anche il cambiamento nostro di sguardo, cioè un allargamento proprio l'adolescente come risorsa del territorio. È lui che può essere protagonista della ricerca, dell'azione, è lui che è una testa pensante con le sue qualità e le sue risorse. Quindi ancora più giovani di noi, e quindi questo è veramente molto importante, insomma. Avete detto delle cose bellissime, io un po' forse provocatoriamente ho detto domanda politica, ma anche no, perché comunque quando si parla di integrazione o comunque di giovani non deve avere un colore politico questa cosa, è di tutti, ci appartiene. E scriveteci, soprattutto mi rivolgo a chi ci ascolta dalla Dozza di Bologna, redazione liberidentro@gmail.com, se avete delle domande io come al solito le girerò a Pietro e a Laura. Ci rivediamo domani, grazie mille, rimaniamo con una canzone, a tra poco per i saluti finali. Ciao. Sound full of myself a room, but you ain't looking at no other dudes, cause you love me. I'm sorry, baby. So sexy. So you think about a chance, you find yourself trying to do my dance, maybe cause you love me. You do well. So then we try. Singing a slow now because you weren't used to how fast we touched. Fast we touched. Then we like eyes. And I knew I wasn't there, and I was gonna tear your ass up. I know that I'm carrying on, never mind if I'm showing off. I was just frontin'. You know I want you, babe. I'm ready to bet it on, unless you don't care at all. But you know I want. Ben ritrovati a tutte e tutti. Come al solito, al termine delle nostre puntate vi ridiamo appuntamento con la rubrica a seguire, anzi questa volta sono due. Abbiamo le pillole di Antigone con Aria Ferma, le interviste di Associazione Antigone su questo bellissimo film, e subito dopo Liberi o Libri Dentro con la nostra Diana Bota, che continua a parlare di libri intervistando Marwa Mahmood. E sempre da me, da Antonella Cortese e da Enea Flacco, sempre qui con noi al montaggio di queste puntate, un saluto carissimo e a domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.